voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Gianmaria Buccellati, una bottega di artigiani orafi nel mondo. Di Anna Marino. Noi siamo milanesi e la bottega in milanese è il negozio. Però anticamente la bottega era il posto dove lavoravano gli artigiani. Anche nel Cinquecento, all'epoca dei grandi artisti, esisteva la bottega. E quindi bottega inteso nel senso non tanto milanese, quanto nel senso aulico rinascimentale, è una espressione molto bella che fa sentire la persona parte di un mondo che ormai è quasi un po' scomparso. Così spiega la tradizione della bottega italiana Gianmaria Buccellati, che rappresenta la seconda generazione della saga familiare di alta gioielleria italiana. Nato a Milano il 21 maggio 1929, Gianmaria Buccellati ha oltre 60 anni di esperienza professionale nel settore, acquisita dapprima affiancando il padre, Mario, nella gestione dei laboratori orafi e della produzione, e proseguendo con la creazione artistica degli oggetti che vengono da subito apprezzati per la qualità e la perfezione anche dai rappresentanti di case reali, rinomati finanzieri e grandi personalità artistiche e letterarie. Ad oggi l'azienda esporta oltre l'80% del proprio fatturato. La prima bottega che portava il nome di famiglia fu quella di Contardo Buccellati, che più di 250 anni fa, nel 1750, aprì un negozio di oreficeria e argenteria in via degli Orafi, attuale via Orefici, a Milano. Così ricostruisce gli albori Gianmaria Buccellati. Nell'ambito dell'oreficeria non abbiamo più niente. In famiglia invece abbiamo qualche pezzo di argenteria, perché l'argenteria, essendo quasi sempre un utilizzo casalingo, ne abbiamo tramandato. All'epoca, più che il nome, c'erano dei timbri che significavano il nome. Il timbro o il marchio che rappresentava Buccellati era un toro. Diversi oggetti marchiati del toro significavano che provenivano da quell'epoca e quindi di Contardo Buccellati, che era proprio il primo che ha cominciato nell'arte orafa. Poi nel tempo è rimasto in famiglia sempre il nome, ci sono stati dei parenti, dei cugini, così. È stato mio padre che, rientrato dopo la guerra, orfano com'era, perché lui ha cominciato a pochi anni a lavorare, era 6 anni quando è ritornato a Milano e ha cominciato a 10 anni nella bottega dei suoi parenti, e poi è andato in guerra. Quando è tornato ha ripreso tutta l'attività e gli ha dato questa spinta, direi unica come concetto, dell'arte orafa. In cosa è consistita questa spinta? Nella sua capacità di riunire nella creazione di un oggetto tutte le tecniche dell'oreficeria, una tradizione che era ormai millenaria, posso dire più che centenaria. Nel 1919 Mario Buccellati, padre di Gianmaria, il fondatore della tradizione familiare di oggi, prese in carico l'attività dai suoi cugini e la continuò usando il suo nome e aprendo il suo primo negozio vicino al centralissimo Teatro della Scala, conoscendo artisti e intellettuali dell'epoca, anche Gabriele D'Annunzio, grande amico e ammiratore di Mario, come racconta il figlio. Già all'epoca di mio padre il negozio era in via Santa Margherita, di fianco alla Scala praticamente, e mio padre da ragazzo si ricordava dei vari Boito, Verdi, Mascagni e tutte le persone che frequentavano la Scala. Particolarmente mi ricordo di Boito, che lui amava molto, mio padre, e quindi ha vissuto un momento di evoluzione di questo suo apprendistato dell'arte orafa in un mondo molto frequentato dalle persone più in voga dell'epoca, perché il negozio era proprio di fianco alla Scala. In particolare c'è un'opera, un centrotavola, che è nella storia di famiglia, una grande creazione del padre di Gianmaria Buccellati. Certamente quando un'opera, per essere compiuta, richiede decenni e decenni, è così. In fondo era una sua concezione. Già all'epoca mio padre faceva pezzi di argenteria monumentale. Un centro da tavola che non è una fontana, ma ha quattro grosse conchiglie che figurano quasi come conchiglie berniniane e figurano come raccogliere dell'acqua da parte di ninfee, di sirene, sono tutte documentate in quel disegno che ho ancora conservato. È un'opera che mio padre ha cominciato negli anni 20 e che però non aveva mai portato a termine, perché tra le difficoltà, le guerre, una cosa, l'altra e l'altra, non era riuscito a portarlo a termine. Quando è scoppiata la Grande Guerra, lui aveva una piccola casa su in montagna sopra Biella, dove aveva tra l'altro conosciuto mia mamma e si erano sposati. Tutto quello che aveva, perché aveva paura che i tedeschi glieli portassero via. E allora lui aveva preso e portato su tutto quello che poteva, tra cui anche queste cose, che erano tutti pezzi d'argento che lui aveva già cominciato a fare, alcune diffusioni, e li aveva nascosti in una cascina. Finita la guerra non ha voluto riprenderlo, perché riteneva che era un oggetto troppo importante, troppo grande, e l'ha lasciato lì, l'ha dimenticato. Quando io sono andato a riprendere in fondo ancora tutti quei resti che erano rimasti, ho trovato i disegni originali che mio padre aveva fatto. E la cosa mi aveva molto emozionato. I disegni erano fatti su carta da pacco, sai quella carta marroncina, beige, tutte legate assieme. Io adesso poi li ho rimessi a posto con dello scotch, ma loro lo scotch non c'era, erano incollati dietro, ma si erano un po' scollati. Temevo che l'umidità li avesse rovinati, mentre invece con grande lungimiranza li aveva chiusi in una cassetta di legno tutta sigillata di ceralacca. Quando li ho aperti erano ancora perfetti e intatti. Adesso l'ho finito 4-5 anni fa. Uno pesa 100 kg come oggetto, ha delle dimensioni di 2 metri per 1 metro e mezzo, alto 1 metro e mezzo circa, quindi più che un centro da tavola è un centro decorativo che può andare in un castello. Tra le difficoltà durante la guerra anche quella di reperire il materiale, come racconta Gianmaria Buccellati. Allora mio padre durante la guerra ha cominciato a lavorare il rame e faceva e ha fatto dei gioielli, delle scatole, tante cose in rame che ancora oggi sono in giro per l'Italia. Io non ne ho uno solo che mi è rimasto di mio padre. Non c'era argento e oro, tanto meno, perché era tutto requisito dallo Stato. C'è stato come un'interruzione della vita durante il periodo della guerra, perché anche gli operai di mio padre, molti sono andati in guerra, proprio a fare militare, e quindi si era un po' fermato, tanto che mio padre si era messo a fare un po' commercio, pur di sostenere la famiglia, commercio anche di oggetti antichi, e così ha sopravvissuto. Però quando ha ripreso, anche nel primo dopoguerra, non ha rinunciato a fare dei gioielli e, come le dico, usava il rame, poco l'argento perché ce n'era pochissimo. L'oro, vabbè, è tornato nel 46-47 a essere commerciato. Dopo la prima guerra l'attività riprende e Gianmaria Buccellati ricorda così il suo ingresso in azienda. Rifiorisce l'attività. Noi eravamo 5 fratelli. Io ero il quarto di 5 e i primi 3 hanno ognuno a modo suo partecipato alle vicende della guerra. Io sono stato il primo che ha deciso di abbandonare gli studi contro il volere di mio padre, ma io avevo il disegno proprio come natura. I Buccellati aspettano che finisca anche la Seconda Guerra Mondiale e poi arriva una nuova ripartenza che dipende sempre dal padre di Gianmaria Buccellati, che apre così le sedi di Firenze, Roma, New York. Era un uomo molto energico e volitivo e ha ripreso con grande entusiasmo e ci ha messo quasi tutti nell'azienda. E mio padre però ha pensato subito come sistemarci. Appena liberi dagli impegni di studio, il mio fratello maggiore l'ha mandato a New York, dove poi è andato e ha fondato la prima sede estera a New York. Il secondo, che stava ancora studiando a Firenze, gli ha dato l'incarico del negozio di Firenze. Il terzo l'ha mandato a Roma. Io sono rimasto con lui a Milano, anche perché ero tra tutti quello che aveva preso di più il senso artistico e creativo che lui aveva portato avanti. L'altro era troppo piccolo. Mio fratello è ancora adesso professore all'Università di Los Angeles, UCLA. Qualche anno dopo la morte del padre, nel 1965, Gianmaria Buccellati si divide dai quattro fratelli e raggruppa in una nuova società, la Mabuti S.P.A., tutte le forze artigiane, gestendo personalmente il settore artistico e creativo e mirando ad incrementare i punti vendita nel mondo. Ecco come Gianmaria Buccellati vede il passaggio generazionale. Non c'è stato un particolare modo di insegnarci qualche cosa. Ci ha messo subito a lavorare e ha preteso da noi la serietà nell'ambito del lavoro. In questa importante affermazione della tradizione di famiglia, ormai giunta alla quarta generazione, Gianmaria Buccellati ama sottolineare quanto ancora oggi la sua sia un'azienda di famiglia, nella quale ogni membro apporta il suo saper fare. Infatti la sua imprenditorialità è supportata dalla moglie, Rosy, che si occupa del settore commerciale, del figlio Andrea, che gioca un ruolo fondamentale nel settore creativo e gestionale, dalla figlia Maria Cristina, che si occupa della comunicazione e dell'immagine del gruppo, e dal figlio Gino, che gestisce la fabbrica di argenteria in provincia di Bologna. Passaggio del testimone che ha mantenuto intatta la struttura familiare dell'impresa. Ho avuto tre figli, due maschi e una femmina, e un po' sullo stile di mio padre li ho coinvolti tutti nel lavoro. C'è già la quarta generazione che si sta portando avanti. Attualmente le tecniche utilizzate sono quelle di sempre, eseguite artigianalmente, ovvero a mano. Una delle caratteristiche di Casa Buccellati è che tutti i disegni e le creazioni sono eseguiti da un membro della famiglia stessa, il quale, quasi per miracolo, in ogni generazione è l'erede designato, come se un gene ereditario eseguisse automaticamente questa selezione. Ma Gianmaria Buccellati, per spiegare la sua vena artistica, che segna profondamente la sua vita, parla di lavoro. Io vivo la mia vita nel lavoro, ed esclusivamente nel lavoro. Creazione, per me, perché la cosa più importante è mantenere la facilità, come io ho sempre avuto, di esprimere con la matita dei sentimenti. Dal 1970 al 79 si succedono a ritmo serrato le aperture di nuove boutique. A Hong Kong, in Sardegna presso l'Hotel Cala di Volpe, a Tokyo e a Monte Carlo e, da ultimo, a Parigi in Place Vendôme. Negli anni 80 l'azienda si trova in un periodo di prosperosa crescita. L'anno 2000 segna un'importante tappa nella carriera di Gianmaria Buccellati, che viene invitato dalla Smithsonian Institution di Washington ad organizzare una mostra di creazioni sue e del padre, Mario. Si tratta di una mostra antologica che riscuote notevole successo e segna l'inizio di una lunga serie di collaborazioni con importanti musei italiani e stranieri. Inoltre nasce la Fondazione Buccellati, alla quale Gianmaria Buccellati ha conferito la sua collezione privata di preziose coppe ornamentali e gioielli, insieme a oggetti e creazioni eseguiti dal padre Mario e raccolti nel tempo, nonché i suoi disegni originali e quelli dello stesso papà Mario. E poi una continua crescita mondiale: Londra, Aspen, Mosca e innumerevoli riconoscimenti, perché secondo Gianmaria Buccellati sono tradizione, cultura e radici che contano. Lo sviluppo internazionale aveva cominciato mio padre, ma con un negozio solo a New York. Tutti gli altri li ho portati avanti io. In effetti mi manca ancora più di mezzo mondo, ma ci saranno i miei figli. Ma Gianmaria Buccellati conserva come dono prezioso la semplicità e l'umiltà di fare il proprio lavoro bene e senza sosta. Tutta la mia vita lavoro, e il lavoro è la mia vita. qualche volta qualcuno mi dice di riposare, io ho detto di portare pazienza, che un giorno quando andrò a Musoco riposerò, perché è il cimitero. E così perché in fondo non c'è un riposo più grande per me che il mio lavoro. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.